ha passato la notte nel mio pensare, ha passato la notte nel mio pensare, salto dal pensiero al pensiero, salto del pensiero quando non dimentico. Molto frutto è stato raccolto e la ricerca è intensa e la ricerca non si ferma, neanche dovrebbe fermarsi, cercando il vero percorso per lasciare un segno che serve da faro per quelli che vengono dietro, che serve da faro per quelli che navigano al buio resistendo alla tempesta, che serve da faro per quelli che navigano al buio e vogliono portare a buon porto la loro barca, sia per caso buon porto quello che devo arrivare. Ha passato la notte nel mio pensiero, salto dal pensiero al pensiero, è giunto il momento di issare le vele e riposare. Molto frutto è stato raccolto e la vendita è ogni giorno, dal mercato al mercato, dal pensiero al pensiero. Ha passato la notte e il riposo è dovuto, domani, oggi, più dopo. Le vele di nuovo si saranno, navigheremo con il vento a poppa, aspettando l'arrivare fino a buon porto. La ricerca è intensa e la ricerca non si ferma neanche dovrebbe fermarsi, cercando il vero percorso per lasciare un segno, cercando il vero percorso e l'andare avanti. Ha passato la notte nel mio pensare. Cesare, il Cavaliere.